Spirito libero, tra l'oscurità, la fogna e il cielo limpido, vivere come dentro un brivido onirico. Salgo le scale subito lì, in mezzo all'angolo di un vicolo, cercato come un angelo, un dio ridicolo, di un pianto per te che non sei qui con me. Di nascosto nella mia mente ti dipingo segretamente, osè. Brivido nella mia mente, psiche che vola costantemente. Entra dallo spirito, sale nell'anima, esco da quel buio e tetro vicolo. Notte onirica, mente onirico, presenza di un'essenza di nulla nella... E dentro a noi, fuori noi eroi, non chiamateci poi. Moriremo soli e poi, ma moriremo alla fine come stelle, noi eroi che non si scappa. Se non morti, solo in cielo noi andremo, paradiso d'animo saremo, paradisi d'anima e poi sereno. Dentro la mente di Giorgi, una lacrima nascosta, la sua cicatrice commossa. E dentro al muro, noi usciremo sicuro. Fuori, un altro squarcio nel muro, l'onda sonora che distrugge, che è contro il nostro futuro, il muro di una civiltà in disarmo. Voleremo come dentro a un riarmo, un incanto, incanto incantatamente. Volare con psiche, corpo e mente, psiche, corpo e mente. Toccheremo ogni frutto del mondo che Dio stesso ci ha dato, attraverso un peccato santo guadagnato. Voleremo, e questo tutto immenso meritato, dentro un respiro fondamentalmente d'immenso.